gabbiano, in alto sì laggiù. Vola questo sogno, forse ormai non ci sarà. È nel mare azzurro, scorre un'onda che va via. È nel cielo già, c'è una goccia di magia. Senti questa musica che va, come un'onda scorre e se ne va. Senti questo sogno che va via. Spuma il mare azzurro di allegria. Gabbiano caro, si vola via. Gabbiano caro, volando via. Sento questo mare che sfumeggia un po' di più. Sogno un amore che ormai non vedo più. È nel cielo azzurro, il gabbiano vola via. È nel mare già, c'è un mistero che non sai. Gabbiano che si vola via. Gabbiano che volando via. Vola il gabbiano e vola via così. E vai sempre di più, più in alto al cielo. Si vola via. Gabbiano ca, volando via. Gabbiano ca, si vola via.